Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento che credo sia molto interessante in questo momento, chi sta per fare acquisti. Parleremo di bollicine. Mi sembra chiaro che ci stiamo avvicinando vertiginosamente alle feste, all'ultimo dell'anno, a Natale, quindi le bollicine diventano protagoniste sulle tavole di molti italiani. Ebbene, allora noi su questo vorremmo fare anche così, come posso dire, un tour per capire se si può bere bene con pochi euro, un interrogativo non indifferente, ma lo andremo a scoprire con i nostri ospiti, che sono degli operatori del settore, enotecari, sommelier, quindi ci verremo a farci consigliare da loro per scegliere bene e cercare di spendere sempre il meno possibile. Però voglio anche il vostro aiuto, cari radioascoltatori, segnalateci pure cosa state acquistando, quanto costano. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo da Torino, andiamo in un'enoteca famosa di Torino, andiamo dall'Enoteca Gallo e andiamo da Fabio Gallo, che oltre ad essere un enotecario è anche presidente dell'AIS Piemonte. Buongiorno Fabio. Buongiorno Davide. Allora, si può conciliare secondo te il bere bene sulle bollicine con, diciamo, spendere ingiusto, non spendere cifre così con doppi zeri? Sicuramente non si possono spendere 2 euro, però diciamo che se si può bere bene intorno ai 15 euro, ecco, stando sotto questa cifra, si può bere anche metodo classico? Si può bere metodo Charmant? Cosa si può bere? Ma su quelle cifre lì, sui 15 euro, sicuramente c'è la grande realtà oggi del Prosecco. Il Prosecco Metro Charmat, come sappiamo, è un bere anche eccellente, quindi una bollicina anche morbida, piacevole, profumata. E poi anche altre zone d'Italia oggi propongono degli ottimi vini a dei prezzi concorrenziali, quindi magari non proprio 15, ma salendo sui 20, 22, 25 euro si trovano già delle bottiglie diciamo di pregio. Quindi insomma, facendo una buona ricerca si può sicuramente riuscire a bere bene. Rimani con noi perché abbiamo già un radioascoltatore, Luca da Treviso. Buongiorno Luca. Sì, ciao Davide. Io volevo parlare del prosecco di fermentazione in bottiglia, che è un po' il prosecco della nostra tradizione. Io sono un produttore dei Colli Asolani, dell'Asolo di OCG, e mi piaceva insomma riportare alla ribalta questo vecchio tipo di prosecco, che una volta era tutto così, rifermentato in bottiglia, i lieviti rimanevano in bottiglia, una sorta di metodo classico, insomma, senza la sboccatura, diciamola così, per farla breve. E c'è un po' appunto questa riscoperta che secondo me anche sotto le feste di Natale. Senti, ma questo metodo, ecco, questo è importante, questo metodo di produzione costa meno al produttore? In realtà costa meno dal punto di vista degli investimenti di macchinari, però è molto più difficile, cioè è molto più rischioso, è molto più difficile ottenere un gran prosecco col fondo. Ecco, quanto... Perché è come tutti i metodi classici, tutte le rifermentazioni in bottiglia, e particolarmente nel prosecco, è un attimo, insomma, imbottigliare e buttar via tutto perché le cose sono andate male. Bene, grazie Luca da Treviso. No, un'ultima cosa, quanto costa più o meno una bottiglia con questo metodo? Io credo che i prezzi siano più o meno quelli di un prosecco a metodo Charmat. Cioè? Diciamo in enoteca attorno ai 10 euro. Bene, grazie. Torniamo a Fabio Gallo. Fabio, tu hai parlato di spumanti, diciamo con metodo classico, fuori delle aree importanti, Franciacorta, sì, sì. Di OCG, Trento Doc, il Piemonte. Ecco, ci fai qualche esempio? Ma Franciacorta abbiamo un folto gruppo di produttori che oggi veramente propongono delle cose di alto livello, quindi se vuoi i nomi, vabbè, Cadelbosco, Bella Vista. No, io dicevo sì, ok, questi sicuramente, sì. E poi magari ne parleremo anche, ma diciamo fuori di queste aree importanti. Diciamo... ogni zona, ogni regione d'Italia ci sono. Troviamo delle aziende che producono delle cose buone. In Piemonte c'è una, come sappiamo, c'è una grossa tradizione spumantistica, quindi aziende anche di grandi dimensioni che ovviamente propongono dei vini di prezzo un pochino più più contenuto, e poi ci sono delle aziende che fanno dei brut, degli extra brut, eccetera, veramente ecco. Sì, molto buoni a prezzi concorrenziali. E poi non dimentichiamo anche il discorso francese, perché oggi c'è l'invasione, come sappiamo, di questi piccoli récoltants, questi piccoli produttori francesi della Champagne, che propongono bottiglie che escono a dei prezzi magari superiori a quello che abbiamo detto prima, però 25, 28, 30 euro massimo a scaffale in enoteca, e sono già delle bottiglie molto molto interessanti. Bene, grazie a Fabio Gallo, Enoteca Gallo di Torino. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Paolo dalla provincia di Torino. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Io sono un consumatore, non un produttore. Le mie esperienze mi hanno portato a conoscere una cantina in provincia di Udine, a Cormons, Casa Ritz, ha dell'ottimo rosé e a 6 euro la bottiglia, è veramente molto piacevole, non acido, non dà problemi anche a chi ha difficoltà a degustare un buon bicchiere di vino per problemi gastrici, chiamiamoli così. E poi in provincia di Cuneo, a Rodello d'Alba, la cantina Giribaldi ha un ottimo moscato. Bene, caduta la linea, ma credo che il nostro radioascoltatore avesse già detto tutto. Devo dire che ho già ricevuto qualcosa come 15 sms che tutti segnalano dei nomi. Bene, poi magari pian piano andiamo avanti, leggerò anche questi sms perché chiedono così dei consigli su, ad esempio, appena comprato Ferrari Classico a 11,28, Berlucchi a 7,99, ma sono validi? Beh, i due marchi sono veramente marchi di qualità, quindi non metto in dubbio che siano validi questi due acquisti ad Alex. Bene, grazie ad Alex, grazie a tutti coloro che hanno mandato gli sms con delle indicazioni. Io ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Ecco di nuovo a parlare di bollicine a buon prezzo. Ci sono, esistono. Numero verde 800 24 0024. Ma vorrei aggiungere anche un secondo interrogativo. La flute la buttiamo dalla finestra l'ultimo dell'anno o la teniamo ancora per bere le bollicine? Bene, questo è un altro interrogativo che lancio magari anche ai nostri radioascoltatori. Bene, continuiamo questo viaggio, sentiamo Renato, un altro radioascoltatore dalla provincia di Vicenza. Ovviamente c'è molto interesse in questi giorni sulle bollicine. Buongiorno Renato. Sì, buongiorno. Mi dica. Io sono un produttore. Bene. Di Lessini Durello Spumante. E una piccola realtà che si trova tra le province di Vicenza e Verona, un terreno vulcanico, origine vulcanica sottomarina e poi è ritornato il mare, quindi un terreno particolare. La zona non è molto grande, la produzione massima della nostra zona è 500.000 bottiglie di spumante, metodo Sarmat e anche metodo classico. Io sono un produttore di metodo classico. Per quanto riguarda i prezzi, ecco, diciamo, arriviamo al dunque. Sì, restiamo ampiamente sotto i 15 euro. Per il metodo classico si va dagli 8 ai 12 euro. Per il metodo Sarmat penso 3-4 euro 5. Bene, grazie Renato, grazie. Stamattina è la mattina dei produttori, vedo che i nostri radioascoltatori che telefonano. Ma ora andiamo a parlare con un enologo che al tempo stesso è anche lui produttore, Mattia Vezzola, enologo di Bella Vista. Buongiorno Mattia. Buongiorno. Allora, io a te voglio chiedere un particolare, perché credo che sia anche giusto chiarire la differenza dei costi che subisce un produttore producendo o classico o Charmat. È molto rilevante? Beh, è molto rilevante se i numeri diciamo sono contenuti. Chiaro che se facciamo in maniera esponenziale più di qualche 50 milioni di bottiglie, tutto viene praticamente, si livella. Ma se rimaniamo, diciamo, nella nostra produzione, nella normalità, c'è molta differenza tra un metodo classico e un metodo Charmat nei costi di produzione. Quindi cioè, è anche giustificato che il metodo classico, sì, costi molto di più, anche perché in molti casi c'è un invecchiamento, quindi un costo finanziario per tenere in cantina questi prodotti. se si vuol fare, per dirvi una cosa molto che può capire, possono capire tutti, no? Per fare ogni 100.000 bottiglie di metodo classico, normalmente se si lavora in maniera discreta servono 1.000 metri di cantina, come superficie di cantina. Cioè un'azienda che fa 1 milione di bottiglie deve avere almeno 10-15.000 metri di cantina, quindi dal punto di vista degli investimenti sono decuplicate rispetto a chi produce il metodo Charmat, oltre all'investimento della capitalizzazione. Che normalmente l'investimento immobiliare non supera quasi mai il 30% di quello che serve per poi mettere questi vini di alta qualità sul mercato. Quindi è una filosofia che deve comportare un automatismo di un investimento significativo dal punto di vista finanziario. Bene, rimani con noi, sentiamo Maria Grazia della provincia di Verona. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno Davide, grazie del collegamento. Volevo anch'io parlare del Durello, ha parlato prima un produttore, è una realtà in fermento e questo vino francamente è uno dei, diciamo, degli autoctoni con le bollicine che merita un'attenzione particolare. E poi volevo dirti, sappiamo benissimo che con il panettone, il Pandoro, no, si stappano solitamente i brut. In realtà in Italia ci sono parecchie possibilità di stappare bottiglie invece di bollicine dolci. Scusa Maria Grazia, io lo sconsiglio vivamente di abbinare il brut o il metodo classico. Sappiamo benissimo. Beh, a mezzanotte forse invece a mezzanotte bisogna andare con le bollicine. Sì, ecco, quindi ti volevo segnalare, visto che sì, sono di Soave, che esiste un'ottima versione con le bollicine del Reciotto. Bene, grazie Maria Grazia. Sentiamo Franco dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Franco. Buongiorno, vorrei ricordare a Vezzola quella volta che Bono gli scambiò il Bella Vista con l'ottimo Prosecco. Allora, niente, io volevo segnalare per esempio che anche al sud si sono cominciate a fare delle ottime bollicine. L'esempio più grande è, per esempio, che ho assaggiato da poco, è Grotta del Sole con una Sprigno d'Aversa, metodo classico, tra l'altro invecchiato 36 mesi e a prezzi di 13-14 euro. Inoltre vorrei ricordare anche, per chi ama l'estero, un vino che viene conosciuto poco in Italia, che è la Blanchetta di Limoges, che fra l'altro è anche il padre dello champagne, che ha poco più di 10 euro, è un ottimo champenoise che... Bene, a prezzi grazie Franco della provincia di Vicenza. Bene, ora abbiamo con noi un operatore del settore della ristorazione, Giovanni Fiorin. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Volevo chiederti, diciamo 15-18 euro, si possono bere delle ottime bollicine metodo classico? Ma metodo classico è decisamente, secondo me, consigliabile cercare di alzare un po' il tiro. Non di molto, però attorno ai 25 euro si possono bere delle cose fatte davvero molto bene. A me sotto i 20 euro piace sempre consigliare il metodo Charmat, tipo il Prosecco, e in questo caso, se posso Davide, farei il nome dell'azienda di Silvano Follador, che lavora senza zuccheri aggiunti, quindi sono dei prosecchi molto taglienti, molto secchi, e secondo me questo qui è un ottimo esempio. Da notare che sta facendo anche un ottimo studio, che però è ancora in una fase, diciamo, di studio sul metodo classico con il prosecco proprio. In questo momento sui scaffali Enoteca sarebbe anche possibile trovare il 2009 prosecco metodo classico, è sempre una bollicina che si trova sotto i 25 euro, e questo potrebbe essere, secondo me, un bel modo di coniugare una bollicina italiana ad un metodo che proprio italiano non è, e con un costo interessante, e provare qualcosa di nuovo. Giovanni, ci dai anche uno champagne, perché è giusto anche parlare di champagne, non bisogna essere così attaccati, sì, ai propri prodotti, insomma. Riprendendo lo spunto del primo intervento dell'enotecaro di Torino, è un periodo in cui i piccoli produttori francesi hanno un po', tra virgolette, invaso il mercato italiano, e a voler fare un po' di ricerca si possono trovare cose molto interessanti. Due nomi, a me piace molto proporre sempre, per chi ama i Pinot Neri, quindi le bollicine di struttura con le quali addirittura si può anche mangiare. André Clouet, lui lavora in biodinamica, un pinonero in purezza del villaggio di Busy, quindi pinoneri di forza e di struttura, e questo comodamente sotto i 30 euro o comunque attorno ai 30 euro si può trovare. Spostandoci un po', andando nell'Ob, che quindi non è una delle tre zone più prestigiose, diciamo, della Champagne, però con un ottimo anche qui rapporto tra la qualità ed il prezzo, c'è Jacques Lassaigne, che produce al contrario uno Chardonnay in purezza sempre in biodinamica, che a quel prezzo può regalare delle ottime soddisfazioni. Grazie a Giovanni Fiorin. Sentiamo Emilio dalla provincia di Pavia. Buongiorno Emilio. Buongiorno Davide, niente, rispondo semplicemente alla sua domanda. Inoltre Po Pavese ci sono spumanti di alta qualità, ricordiamo che è una culla del Pinot Nero che fornisce molte altre zone dell'Italia, Piuve. Perciò niente, era solo per dare anche l'oltre Po Pavese, poi bene, tra lei. Grazie. Bene, grazie. Torniamo a Mattia Vezzola, gli voglio fare questa domanda. Mattia, tu che sei un tecnico, cosa consigli, di bere il metodo classico nella flute oppure in un bicchiere più largo? No, ci sono diversi tipi di flute, ecco, l'importante è che la flute non sia eccessivamente stretta nel bordo diciamo del bicchiere, ecco, di evitare di fare ginnastiche sulla cervicale per poter finire il bicchiere. Quando la flute sicuramente dà più possibilità di godere con l'occhio il perlage, e siccome che l'occhio anche vuole la sua parte, come si dice, quindi io consiglierei sempre una flute però che sia diciamo abbastanza ampia, ecco. Diciamo che normalmente quando si versa 100 grammi di vino nel bicchiere deve appena appena superare la metà, poi che si sia una flute è meglio, diversamente piuttosto di avere una flute piccolina, diciamo sottile, estremamente diciamo di dimensioni piccoline, noi avremo, è meglio avere un bicchiere da vino bianco piuttosto. Bene, grazie a Mattia Vezzola, lo ripeto, enologo di Bellavista, una delle aziende leader del metodo classico in Italia. Grazie, continuiamo questo giro. Sentiamo Arturo dalla provincia di Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Arturo. Buongiorno, niente, io volevo anche essere un po' polemico dopo tutto quello che ho sentito, perché insomma io sono un otticario, sono anche un bevitore. E quindi voglio bere anche delle cose, delle bollicine che non mi facciano male, non delle limonate come si sentono in giro più spesso. E quindi voglio ricordare a tutti, la bollicina fine e cremosa si ottiene con metodo classico che sta da tanti anni sui lieviti. Quindi io preferirei bere delle annate vecchie, come ad esempio può essere una bellissima in realtà che abbiamo qui in zona, è la cantina di Bellaguardia, Montechiomaggiore, che fa il durello a metodo classico. È una realtà nata da 2-3 anni e sono venuti fuori con un 95 extra brut a base di durello, molto molto interessante. Sì, l'ho assaggiato anch'io, è vero, l'ho trovato ottimo anch'io, mi ha molto sorpreso questo vitigno, non pensavo desse questi risultati. Bene Arturo, la ringrazio, grazie della segnalazione. Andiamo ora a Luigi da Bologna. Buongiorno Luigi. Buongiorno a lei Davide, la sento sempre. Ascolti una cosa, nessuno parla del pignoletto di Bologna, che è Bologna, che c'è una cantina che sta facendo un rifermentato in bottiglia, che bollicina è ottimo per me, i prezzi sono accessibili sui 14-15 euro in osteria, si paga, sono buoni, non hanno niente da invidiare a molti altri vini che a lei ha citato prima, secondo il nostro gusto, ha capito? Bene, grazie. Io devo dire che sto assistendo veramente a un'operazione di regionalizzazione, ognuno difende il proprio territorio, è anche bello questo, perché così emergono anche aree magari che a molti radioascoltatori non sono note per appunto per gli spumanti, per le bollicine, quindi è interessante anche questo. Sentiamo anche Antonello d'Asti, buongiorno Antonello. Sì, spenga la radio perché altrimenti dottor Paolini, no. Buongiorno. Prego. Ascolti, io volevo fare solamente questa considerazione. Io sovente vado in Francia, in Costa Azzurra, vedo delle enoteche bellissime, dove i vini italiani sono carissimi, sono vini, diciamo così, per usare un eufemismo, non di prima qualità, mentre invece vedo nelle nostre enoteche, vedo anche citato in trasmissioni sovente, si parla molto sovente di champagne. Ecco, volevo fare solamente questa considerazione di servizio. Bene. Volevo che lei facesse una riflessione. Grazie, andiamo ancora di più appunto nel discorso Forza Italia. Vabbè, grazie Antonello D'Asti, linea alla regia, torneremo fra poco. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine, se si può brindare bene al 2012 con pochi euro, bisogna vedere cosa si intende per pochi ovviamente. Vedo qui, ho ricevuto veramente tantissimi sms di tutti che mi segnalano vini sotto i 10 euro. Alcuni contestano alcune cifre che sono state date, ad esempio su quello che ho dato sul Berlucchi e il Ferrari, mi dicono che al supermercato si trovano a un prezzo superiore, può darsi che siano prezzi diversi tra i supermercati, cari radioascoltatori. Comunque ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Trovo anche un radioascoltatore di Treviso, Carlo, che dice che io ho parlato di prezzi di Blanchette, se l'è sognato. Io non ho parlato mai di nessun prezzo, ne hanno parlato gli esperti o i radioascoltatori, quindi è inutile contestare delle cose se si ascoltano magari altre trasmissioni. Continuiamo appunto questo viaggio e ora io voglio parlare anche di champagne, perché è anche giusto parlare di questo prodotto, perché sicuramente è sempre molto consumato e quindi non è che sia sparito dal mercato, è concorrenziale con i nostri vini, soprattutto con quei vini metodo classico di aree importanti come il Trento DOC e Franciacorta GOCG, anche se, e lo voglio sottolineare, secondo me sono due prodotti diversi, quindi uno è un prodotto stile italiano, l'altro è un prodotto francese. Allora io voglio cominciare a parlarne con Roberto Bellini. Roberto Bellini è vicepresidente dell'Associazione Italiana Sommelier e General Manager della Worldwide Sommelier Association. Allora voglio chiedere a Roberto, che è notoriamente un grande conoscitore di champagne, se c'è un livello minimo, diciamo, di champagne, magari dei piccoli produttori in cui si bevono dei prodotti eccellenti. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno Davide. Ma in merito allo champagne è un po' come il mercato italiano, possiamo trovare le soluzioni per ogni tasca. E quindi ci sono delle occasioni, delle possibilità di brindare o consumare questo prodotto a dei prezzi molto accessibili, perché il mercato dello champagne non ha avuto quegli eccessi di aumenti che altri prodotti nel mondo del vino in questi ultimi anni hanno espresso, e quindi si possono trovare tranquillamente, basta affidarsi a enoteche di fiducia, a consulenti di fiducia, ma anche nella grande distribuzione possiamo trovare delle cose interessanti. Ecco, io ti faccio un prezzo, cioè con 20-22 euro si può trovare uno champagne, non dico straordinario, ma di buona qualità. Sì, con un minimo di impegno si può trovare uno champagne di qualità più che sufficiente, insomma. E poi sai, il concetto di qualità è un concetto molto particolare, non ci sono dubbi. Bisogna vedere cosa si intende con qualità, però si possono tranquillamente trovare anche in enoteche specializzate, insomma. Ma mi viene la battuta sulla qualità, che c'è stato un grande enologo proprio francese che diceva che la qualità di un vino dipende dalla qualità di un degustatore. Siccome la qualità del degustatore non esiste, puntini lasciamo interpretare. Però io lo chiedo anche a Luca Gardini, campione del mondo di sommelier. Buongiorno Luca. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Se tu dovessi consigliare uno champagne intorno a questa cifra, 20-25 euro, consiglieresti qualcosa? Sì, si trova qualcosa, posso consigliare qualcosa, perché penso, come diceva l'amico Roberto, poi dipende da qualità anche da gusti, io dico, perché lo champagne va molto gusti. Sicuramente abbiamo dei buoni Laurent Perrier non millesimati, molto buoni, dei Moët, degli Aiglio Orier, se vogliamo andare anche su qualche champagne più particolare con un gusto un po' più estremo, un po' più deciso, però poi dirà anche il gusto della persona e di chi lo deve andare a bere. Senti, e qualche invece metodo classico italiano, delle bottiglie abbordabili in questi tempi, dice un radioascoltatore che scrive: caro Davide, in tempo di crisi quest'anno si brinderà con acqua dalla fonte, quindi vabbè, non siamo così pessimisti, però sicuramente di problemi ce ne sono tanti anche nelle tasche, nei portafogli del consumatore. Allora dacci qualche bottiglia a buon prezzo, metodo classico. Beh, sicuramente metodo classico italiano possiamo stare andiamo in Franciacorta, starei sul PR dell'azienda Monterossa di Emanuele Robotti, un spumante molto piacevole, di grande bevibilità, se no sull'Extra Brut delle Marchesine, della famiglia Gatta, se no ci può andare anche in Alta Langa con l'Alta Langa Metro Classico dell'azienda Fontana Fredda, o perché no, anche se no se vogliamo uscire un po' dagli schemi, ho un verdicchio Metro Classico dell'azienda Garofoli, che beve qualcosa di diverso, però sempre piacevole, di grande qualità e di estrema finezza. Bene, rimanete in linea tutte e due, sentiamo Giuliano dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Giuliano. Pronto Giuliano? Sì, mi senti? Prego, prego, parli pure. Allora, io sono Giuliano di zona DOC di Breganze, un produttore. Abbiamo creduto io e mio figlio Giorgio, che è enologo, molto nel vitigno autoctono di Breganze, che è la Vespaiola, con cui si fa il Vespaiolo fermo, classico abbinamento col baccalà alla vicentina, e soprattutto la punta di diamante, il torcolato. Noi abbiamo sperimentato, sono già 2 anni che abbiamo iniziato, a spumantizzarlo metodo classico. Abbiamo fatto la sboccatura proprio fine novembre. Abbiamo presentato il Castello Colleoni di Tiene, nelle cantine dello stesso castello sono in affinamento le nostre bottiglie. Il risultato mi sembra, almeno dal mio punto di vista interessato, eccellente. Bene, grazie. Questa mattina è veramente la grande mattinata dei produttori, stanno chiamando da tutta Italia e stiamo scoprendo spumanti, metodo classico, con vitigni completamente diversi, Vespaiolo, Durello. Cosa ne pensa Roberto Bellini di questo? Ma io direi che c'è una zona che ha fatto un giusto intervento commerciale con un prodotto di alta qualità, che è l'Oltrecoop Pavese, col Curasè, il rosato fatto da 100% Pinot Nero. Perché quella è una realtà che sta crescendo con una qualità eccellente ed un prezzo molto interessante e abbordabile. Fra cui c'è l'azienda Travaglino, ci sono tanti che hanno fatto questa identità nuova nella loro metodo di spumantizzare, insomma. Quindi Luca, tu cosa ne pensi di questo allargare veramente ai vitigni classici che fanno parte della cuvée, diciamo sia dello champagne che degli spumanti di metodo classico? Ma io penso che tutto va bene, quindi lo condivido, anche se se posso dare un consiglio o un suggerimento, di non andare troppo a copiare o essere estremisti, andare a cercare quelle cose estreme. Per esempio, mi è capitato di fare una degustazione del Curi Durello e devo dire che l'idea come l'hanno proposto mi è piaciuta, però molte volte si cerca di andare a cercare quello che è più il gusto, no, internazionale. Io dico sempre, rispettiamo il territorio. Condivido il Durello sia su Mante, anche nella tipologia metodo classico che non si addate, però fate Durello, nel senso il Durello nuova che deve dare delle determinate caratteristiche, mantenete quello, non si deve andare a cercare o il Franciacorta o il Trentino o l'Anga o l'Oltrepò, come dice Roberto, bisogna tenere sempre un'identità, però condivido. Bene, grazie a Roberto Bellini e a Luca Gardini. Sentiamo un radioascoltatore, Giuseppe dalla provincia di Roma. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, senta, volevo chiedere a qualche esperto, a me piace molto il prosecco, lo spumante, anche lo champagne, se esistono delle marche che non mettono solfiti, a cui sono allergico. Guardi che 2 settimane fa abbiamo fatto una trasmissione dei vini senza solfiti, se questo è possibile, sono emersi diversi produttori che non usano i solfiti proprio nel prosecco. Gliene dico uno perché lo ricordo a memoria, è No SO2. Di Bisol, che è un prosecco senza solfiti. Poi ce ne sono tanti altri, ricordo solo questo, ma ce ne sono parecchi che appunto hanno chiamato e hanno detto che questa era la loro realtà produttiva. Sentiamo Aldo da Roma. Buongiorno Aldo. Buongiorno Davide. Un altro prosecco senza solfiti è quello dei Fratelli Cosmo. Sì. Che ho bevuto una degustazione anche di champagne in Puglia in un ristorante. Quindi è senza solfiti, lei? Senza solfiti, sì. Va bene. E nell'etichetta mette prodotti 1638 litri, non mette il numero delle bottiglie. Ho capito. Deve essere uno artigianale proprio, ed è veramente gradevole. Bene, la ringrazio. Grazie Aldo da Roma, molto tempestivo su questa domanda. Beh, devo dire che gli SMS veramente sono tanti. Tutti consigliano una serie di prodotti. Leggerle tutti veramente mi ci vorrebbe metà trasmissione. Ora tra l'altro devo passare la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi perché continueremo in questo viaggio in Italia. No, sentiamo Alessio dalla provincia di Pistoia. Sì, Davide, buongiorno. Mi dica. Volevo segnalare come vino la Romanella, che si produce sui Colli di Frascati ed è uno spumante molto dolce e molto corposo. Non sono un sommelier, non so descrivere meglio il gusto, però si produce solo in modo artigianale, a quello che ne so io. Volevo domandare se c'è una produzione anche commerciale. Beh, io faccio questo appello perché sinceramente la Romanella io non la conosco, bisogna capire se il nome da che cosa deriva, se lo ha dato un produttore in nome di fantasia, se è un vitigno, quindi disconosco la Romanella. Chi conoscesse la Romanella, prego, chiamare o mandare un SMS, così spieghiamo ad Alessio dalla provincia di Pistoia ciò che ci ha chiesto. Lì alla regia, torneremo a far poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine, bollicine che andranno a Fiumi, almeno si spera, anche se un nostro radioascoltatore ci ha scritto che sarà un ultimo dell'anno ad acqua, quindi speriamo magari che qualcosa si possa bere. Ho letto dai vostri SMS, cari radioascoltatori, c'è chi lo compra spumanti a 2 euro, 3 euro, chi a 5 euro, chi a 8 euro, quindi vuol dire che insomma ce n'è per tutte le tasche. Ma io voglio rivolgere questa domanda subito a un sommelier, diciamo che tutti i giorni è al ristorante e di Piazza Duomo ad Alba, ed è Mauro Mattei. Buongiorno Mauro. Buongiorno, salve signor Paolini. A lei voglio chiedere questo, Mauro: se viene al suo ristorante un cliente in questi giorni e gli dice, o durante l'anno, voglio bere una bollicina italiana, non voglio spendere più di 15-18 euro, lei gli risponde che c'è in carta o non c'è in carta? Ma allora, Piazza Duomo da sempre pensiamo molto al rapporto qualità-prezzo, perché pensiamo che ristorante di qualità non significa per forza svenarsi a tavola, quindi il mondo del vino può essere approcciabile da tanti punti di vista e sicuramente un rapporto qualità-prezzo giusto è un modo per aprire tante finestre sul mondo del vino. Ecco, per quel che riguarda le bollicine, ecco, in carta noi abbiamo diverse cose con un prezzo intrigante. Noi abbiamo un entry level in carta, quindi diciamo sotto i 25 euro non trova nulla, però ci sono diverse cose su quella fascia di prezzo lì, intriganti. E sullo champagne? Beh, champagne andiamo dai 50 euro in su e ci sono anche lì molte cose brillanti, sicuramente ecco un occhio di riguardo per i terroir, quindi per il rapporto che c'è con i vigneron, e anche qui si può bere molto molto bene con sotto i 60 euro sicuramente. Bene, rimanga con noi Mauro, sentiamo, andiamo da un altro Mauro, Mauro famoso per le bollicine, anche perché sono pochi che così sboccano le bollicine con la sciabola. Ciao Mauro Lorenzon. Ciao Davide, ciao. Mauro, si può bere bene il metodo classico o un metodo anche Charmat, perché no, sotto i 20 euro? Guarda, prima di dirti i prezzi volevo fare una premessa che ho ascoltato un po' tutti. Se guardiamo bene, le bollicine le fanno tutte le regioni d'Italia, con tutti i vitigni. C'è una premessa da fare, le bollicine vanno fatte su terreni vocati, prima di tutto. Vanno fatte come in Francia nella Champagne, che è la patria delle bollicine, quindi sono terreni vulcanici, cioè terreni con il calcare sotto la vigna. Da noi si fa, da Manzanare si fa tutte le bollicine del mondo, invece dobbiamo partire dalle zone vocate, che vuol dire avere i terreni adatti. Mi diceva Antoine del Casa del Mon, che è un champagne che preferisco in maniera assoluta, che prima di fare, io diceva che io non faccio champagne, dice, io faccio un vino di champagne, quindi bisogna fare prima il vino e poi la rifermentazione è una cosa successiva, le bollicine sono una cosa successiva, e quindi prima fare il vino, quindi non puntare come fanno gran parte dei produttori italiani sulle uve crude, perché l'acidità non si ricava dalle uve crude, si ricava dal terreno che dà sapidità e dà acidità all'uva che poi successivamente si trasformerà in bollicine. Quindi di fatto cercare bollicine in terre vocate e quindi in linea massima su terreni collinari e con terreni che hanno un buon pH, una buona acidità di base. E da uve mature, perché sennò siamo costretti sempre a fare le bollicine con l'aggiunta di zucchero. Tutti sono capaci di fare il vino con lo zucchero, ma il zucchero deve essere dell'uva, deve essere da uva matura. e poi sostenere le bollicine ci resta l'acidità di struttura e basica. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che le bollicine non vanno fatte dappertutto in tutta Italia o in tutto il mondo, vanno fatte su terreni adatti ai vitigni specifici di volta in volta del territorio. Quindi prima fare vino e poi fare bollicine. E una delle bollicine che preferisco sono quelle appunto del metodo rurale tradizionale oppure ancestrale, come facevano in Champagne. Il Champagne è nato per caso con una rifermentazione di zuccheri residui propri, e quindi ecco, qui c'è una grande discussione da fare. Quindi spumanti di tutti i generi, tutti i tipi di vitigni se si vuole, però in zone evocate adatte per fare le bollicine. Non si può fare le bollicine in pianura e con argilla, con terreni argigliosi, come adesso si sta facendo con un decreto pazzesco che ha fatto l'ex ministro dell'agricoltura Zaia, che ha allargato la zona del Prosecco, per esempio, certo, a tutta la pianura veneta. Certo, al Friuli anche. Io ti ringrazio di questa tua spiegazione, perché secondo me è molto importante, così, e segna un po' il punto, perché in effetti, cioè, vedere spuntare da tutte le parti spumanti in tutte le zone d'Italia diventa un po' preoccupante anche perché i consumi stanno calando, e stanno calando anche per quanto riguarda le bollicine. In secondo luogo vorrei aggiungere a quello che hai detto che dietro a questa moda di fare ovunque spumanti c'è anche quella ormai che tutti fanno il rosé. Ormai non c'è produttore in questo paese che non faccia il rosé, e fino a qualche anno fa veramente era raro trovare dei rosé spumantizzati italiani. Ora invece se ne trovano tutti, quasi per un dovere di mercato ritengono di doverlo fare. Bene Mauro, io grazie di questa spiegazione. Sentiamo Mari dalla provincia di Milano. Grazie. Buongiorno. Mi dica Mari, velocemente per cortesia. Sì, il Brachetto d'Acqui, sì, che è un ottimo vino non costoso con le bollicine, sì, che pur essendo dolce piace anche agli intenditori che amano di solito il Brut. Bene. Mi sembrava doveroso perché, grazie, è un vino tipico della zona di Acqui. Grazie. Beh, Mauro, torno a te. Vorrei un limite, limite d'entrata per uno champagne. Quale può essere dal punto di vista del costo? Ma naturalmente dipende molto. Ah no, volevo chiederlo a Mauro Lorenzoni. A te l'avevo già chiesto. Sì, Mauro. No, guarda, poi sui prezzi, ho diversi prezzi in trasmissione. Voglio partire dai prezzi, da cantina, da bottiglieria, da mescita e da ristorazione. Per far chiarezza partiamo da quelli, diciamo, anche se i consumatori potrebbero essere interessati anche loro a questo discorso. Proviamo a partire dal discorso della cantina. Se parliamo di metodo Charmat, che comunque ha una lavorazione meno complicata e meno costosa del metodo classico, appunto perché, come diceva anche Bezzola, ci vogliono grandi investimenti di spazio e anche di tempo, qui Charmat e quei metodi rurali, che sono quelli che del prosecco rifermentato o anche del pignoletto rifermentato, quello che sarebbe il metodo tradizionale con l'aggiunta non di zucchero ma di mosto dolce, partiamo dai 7 agli 8 euro in cantina, è un prezzo accettabile. Ricaricabile in enoteca si pensa sempre il doppio, almeno il doppio, perché il commerciante ha bene o male di avere la sua possibilità di avere un margine di guadagno. Quindi partiamo sui Charmat o sui rifermentati di bottiglia a un massimo di 7-8 euro. Sugli Champenois, appunto, perché hanno un costo un po' maggiore, dobbiamo dire che i prezzi che io comunque acquisto, essendo anche un notecaro e poi faccio la vendita, oltre che essere produttore, un nostro prestato a contado, sui Charmat andiamo sui Champenois andiamo al massimo dai 12 ai 16 euro, a parte le riserve, eccetera, eccetera, a parte il millesimo, eccetera, eccetera. Sullo Champagne, per esempio, si trovano invece Champagne. Io porto anche i champagne piccolini, i produttori, che sono Grand Cru, ecco, guardare anche sui champagne, per esempio, la dicitura Grand Cru, perché la legislazione francese è molto più rigida, certo, della nostra. e le uve sono veramente solide, si coprono le champagne 14-16 euro. Bene, grazie Mauro, abbiamo chiuso veramente con una spiegazione di Mauro Lorenzon davvero molto ma molto chiara, mi è piaciuto molto, bravo Mauro. Allora chiudiamo questa trasmissione e io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05 e nelle prossime settimane parleremo di panettone e di cene. Quindi a presto, un saluto dal vostro gastronauta. Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Vi ha presentato il gastronauta.